living a new normal. Many of us are staying at home. Living rooms are now offices and schools. Our world is suddenly different. But one thing remains the same. State Farm is there. To many of our customers currently facing financial burdens, call your State Farm agent or go to statefarm.com. Because we're here to help with this new normal. We're just a little normal. Take a full new breath. State Farm is there. Welcome to One World. On tonight's show, we've got 2 hours of electronic madness. Here's Reflex Records. Tonight I'll be talking to two Frenchmen, Richard D. James and Mad Dondos, about their renegade musical Reflex. By the way, we love that. That's spelled R-E-E-H-L-E-X. Hello, Becky. Let's go on our website, reflex.com. You're an official sponsor of Rainbow. So what does that mean for that? Moi, moi, c'est la journée, la figure, moi, piane, la plus belle abeille. Mais bonjour. The Brainbus is a young man who is about to leave him. But you like to come to the electronic music. Come on. J'ai la ligue, le cafou, et les doigts calabac, et les coca-cola boulite. You release on average 1 record per month for 10 years by artists Layla, Square Pusher and the Gentle People. How do you think the label has developed since its creation? Le coca-cola boulite. O cara perdeu. Oh, pai, você não vai parar não de tirar essas Coca-Cola. Ai! Ai! Ai! Ai! Going back to the internet, the reflex.com site is simple but informative. Do you have any plans to expand the resource? Ele tá com martelo na cabeça, viu? Ai! Não me atrapalhe. I'm talking to you guys on the chat. One World out there on Radio 1. You're listening to a Reflex Records special on One World Radio 1. We'll be right back. cold with the chills on my belly. Getting cold with the inner feel silly. That's my girl on the bunk. That's my girl on the drum. Yeah, there's a beat there. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Keep the freaky making. Educate that energy taking. Sing song about the lake. Gonna flex it like I'm taking. You're going to Ohio. Going to New York City. Going to Los Angeles County. Going to Delaware County. All across the world like Trump. All across the world, church of bunk. All across the world, DJ Shmoodra. All across the world, and the Mudra. And the Mudra, Mudra, Mudra, Mudra. Jabba Dooba, Dooba, Dooba, Dooba. This song goes on for fucking ever. I don't have a fucking sweater. What is your favorite color? What is the truth of it? What is the number for cold in the bed? is a beekeeper and makes honey that's the bee's knees. To sell it to his swarms of fans, he created an online store using Squarespace. He chose an award-winning team, embedded product videos, and after each harvest, he uses the commerce app to instantly upgrade his inventory. Create a buzz around your business. Style it, sell it, and make it with Squarespace. Start your free trial today and use offer code SoundCloud to save 10% on your first purchase of a domain or website. この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 We'll be right back. destra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, ho mandato in fiori. Sono un piccolo selvaggio, peggio di Namor. Questo qui è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi. Il mio amico dice calma che mo li divori. Plaza, dici plaza. Sì, i miei ragazzi in gamba svuotano il banga. Per le mani una faccenda e no, non ti riguarda. La mia gente non ti parla, quindi sta alla larga. Si flo ti mangia, yo. Fumo, fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro, mi ha tradito un fratello, yo. Ogni giorno uguale è sempre quello. Io no, non mi lamento, sto bene dove sto, bro. Tu ti arrivo, spacchettini e pacchi, yo. Tu non ne fai, dentro ti palazzi, yo. Manco le posso non spostarci, yo. Io mangio tutto, non ti lascio avanzi, yo. Io mangio tutto, non ti lascio avanzi, yo. Contro sti bastardi sempre un passo avanti, yo. Corro, corro, corro, non sto più a voltarmi, yo. Siamo dei selvaggi, dei gorilla pazzi. Plaza fuori classe, si fuori dalla classe. A scuola giocavo a basket, ma fumare avevo il master, yo. Prendo tutto e non ti dico grazie. Plaza si è fuori classe, in allenamento costante, yo. StateFarm.com, because we're here to help make this new normal feel just a little more normal. Like a good neighbor, State Farm is there. NerdWallet presents Money Questions Credit Card Round. Ready, Steve? No time to answer. Ooh. How can you compare and apply for the best travel credit card? Turn to the nerds. Where can you find the best card for your credit score? Turn to the nerds. For a triple point bonus, is it better to earn rewards in points or miles? I'm kidding. Turn to the nerds. Winner, winner! Fiscally responsible dinner. Game's over, Steve. From the lowest rates to the best rewards. For all your credit card questions, turn to the nerds at NerdWallet.com. We'll be right back. Ehi, tre palazzi come un Porsche grillo. I miei ragazzi attivi basta uno squillo. Ehi, mille cazzi, zero testimoni. Quando butti i pezzi e scrivi testi nuovi, i miei ti smontano quel monitor. Mi sembra logico, non voglio un cazzi quando parlano, mandano emoticon. Qua sotto sembra un videogioco e sto giocando. Questa città che è piena d'odio non mi dà un cazzo. Mi muovo solo in questo gioco, la gang a fianco. Gli amici veri sono i soldi e mi stanno aspettando. Ok, fuori come panni siamo i peggio bastardi. Si bravi ragazzi ma stia attento a toccarci. Plaza, plaza, plaza dicono tutti quanti. Tutti stanno dietro se poi fai quel contanto. Ho mangiato merda da quando ero ragazzino. Questi qua parlavano, mio già sapevo. Ci sempre lo stesso e sono uscito vivo. Con gli stessi amici sì dal giorno zero, ok. Da quando ero solo un ragazzino. Fumavamo canne dentro al magazzino. Guarda come spacca questo ragazzino. Guarda quella là che culo a mandolino, ok. Ok, alcuni ragazzi non li vediamo più. Quel futuro te lo sceglie, le scelte le fai tu. Il mio amico che mi chiama dice vieni prima. Questo mese è andata bene, ho fatto 10.000. Quanti cazzo ne ho visti poi scomparsi. Passano le guardie e siamo scomparsi. Tra che scomparti. Non giocare con il fuoco che puoi scottarti. Meglio non venirmi contro, non puoi stopparmi. Grazie al nome, sì lo sanno qual è il nome. La tua tipa mi conosce e non fare il chiacchierone. Yeah, yeah, hey. Ti richiamo dopo amore. Mando a casa questi reversi. Un minuto per favore, hey. Movie Plus ends tomorrow, so you may be charged. Want to continue or cancel? And where are the both doors? So, Nathan knows. Governor wants a system. Eno looks out for charges that might surprise you and helps you fix them. Eno. Another way Capital One is watching out for your money. You're not. Capital One, what's in your wallet? Limitations apply. We'll be right back.

F-F-E-X-R-I-C-H-A-R-D-A-P-A-Y-S-E-S. Thank you.

Fight!